il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. L'assenza di precipitazioni, soprattutto in montagna, ha determinato in Veneto una situazione di grave criticità in termini di siccità, che per quanto riguarda le falde sta superando in negativo ogni record storico relativamente agli ultimi 20 anni. E le conseguenze si vedono anche sui corsi d'acqua, piccoli e grandi che siano. Sembra che nel periodo tra ottobre 2016 e marzo di quest'anno ci sia un deficit di precipitazioni di almeno 170 mm, circa la metà di quelli attesi, e difficilmente potrà essere recuperata la situazione, visto che neve in montagna non ce n'è. Neve da sciogliere, ovviamente, e alimentare i corsi d'acqua. La preoccupazione non è solo per quest'anno e per l'agricoltura, quanto per una tendenza che sembra essere imboccata. Se piove sempre meno, c'è sempre meno neve, serve forse correre ai ripari anche per quanto riguarda l'acqua da bere, l'acqua potabile normale. Lo si sta facendo, e cosa si può fare nel concreto? Per capire qualcosa abbiamo con noi oggi Andrea Crestani, direttore dell'Unione Veneta Bonifiche, che ringrazio di essere qui. Grazie a voi. Ecco, grazie della disponibilità. La domanda è subito: qual è la situazione? Sì, la situazione di quest'anno è molto critica, nel senso che i dati che appena illustrato evidenziano esattamente qual è lo stato della risorsa idrica in questo preciso momento. In modo particolare, al di là della scarsità di piogge in questo ultimo periodo, soprattutto nel mese di febbraio-marzo, che ha generato poi un deficit nei primi mesi dell'anno di circa 200 mm circa di piovosità media, però questo non sarebbe un elemento di fortissima criticità, abbiamo avuto già negli anni scorsi e negli anni passati, con dei tempi di ritorno anche abbastanza brevi, situazioni di questo genere. Mentre preoccupa molto quest'anno lo stato delle risorse nivali, che praticamente possiamo dire essere assenti, e la poca neve che è caduta si è già sciolta per effetto di queste temperature molto elevate e non ha generato poi quell'accumulo di risorsa necessario nei laghi montani poi per rifornire tutto il reticolo idrografico a valle durante la stagione estiva. In realtà il Veneto è stato una tra le regioni più colpite da questi eventi, da questa, tra virgolette, possiamo dire siccità, non dico conclamata, ma in una fase molto molto evidente. Sì. In questi giorni si stanno, grazie poi all'attività degli osservatori che sono stati istituiti, queste cabine di regia presso le autorità di distretto da parte del Ministero dell'Ambiente, dove sono presenti tutti gli attori interessati alla risorsa idrica, si è già provveduto a emettere e a dare alle regioni poi interessate, nel caso nostro Friuli, Trentino e Veneto, le indicazioni per attuare dei primi interventi. La siccità dichiarata lieve probabilmente verrà dichiarata media, fa scattare alcuni meccanismi come quello della la riduzione delle derivazioni per quanto riguarda l'irrigazione in certo. Questo periodo, quindi risparmiamo risorsa, la risorsa va accumulata nei laghi montani per tenerla conservata nei periodi dei prossimi mesi, quindi verso quelli estivi, e soprattutto, e quindi vuol dire anche agli impianti idroelettrici nei laghi, si limitano le turbinazioni dell'acqua, e soprattutto anche un occhio di riguardo ai minimi deflussi vitali, perché in questo momento potrebbero anche essere ridotti i minimi deflussi vitali. Certo. La Regione Veneto sta emanando i provvedimenti. Nell'arco dello scenario del Veneto abbiamo situazioni diversificate tra il bacino del Piave, il Brenta-Bacchiglione e l'Adige. La parte più critica oggi la possiamo veramente osservare nell'Adige. L'Adige è sempre stato un fiume molto generoso. Quest'anno, proprio per effetto della mancanza di neve a monte, l'Adige è un certo. Fiume che non dà queste garanzie di portate, e soprattutto oggi sta già mettendo in difficoltà la parte polesana, e quindi il deflusso, l'ultimo tratto verso mare, dove da una parte stiamo già rischiando l'infiltrazione del Cuneo Salino, quindi la risalita del Cuneo Salino, in quanto le portate verso mare sono insufficienti a contrastare il mare che invece entra nel fiume, certo. E quindi anche la messa, la chiusura o la possibilità che si possano chiudere gli impianti di potabilizzazione degli acquedotti polesani. Bene. E anche di conseguenza di irrigazione. Ecco. Quindi questo è un elemento importante, non indifferente, che deve essere molto attenzionato, anche perché qua riguarda poi anche i rapporti di uso della risorsa tra le regioni del Trentino, Trento Bolzano e il Veneto. Infatti, perché l'Adige è credo l'unico fiume che passa nel Veneto, assieme al Po, che nasce in un'altra regione, gli altri corsi d'acqua nascono all'interno della regione. Ci fermiamo per qualche minuto, torniamo tra poco per approfondire l'argomento. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Thank you. Torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando della siccità che sta un po' affliggendo la nostra regione. Lo stiamo facendo con Andrea Crestani, direttore dell'Unione Bonifiche del Veneto, Unione Veneta Bonifiche. Abbiamo visto un po' qual è la situazione. Mi veniva da pensare questo: abbiamo in questi ultimi anni parlato molto di interventi per proteggerci dalle alluvioni, perché ci sono ovviamente ci sono state queste calamità, e quindi si è parlato di bacini di laminazione, eccetera eccetera. Certo. Si è tenuto conto anche della possibilità della siccità, quindi ci sono stati fatti o ci sono in programma anche interventi per andare in questa direzione, visto che sembra appunto che sia una tendenza abbastanza costante al calo dell'acqua? Allora, la siccità è sicuramente, o meglio, la carenza di risorsa idrica, lo stato della risorsa idrica è sicuramente molto attenzionato, così come nel momento in cui la risorsa è in eccesso, e quindi per quanto riguarda le alluvioni. Due direttive comunitarie hanno imposto poi agli Stati membri l'applicazione di delle norme molto, molto cogenti. Da una parte abbiamo la direttiva alluvioni, con tutta gli adempimenti necessari proprio per contrastare e mitigare il rischio da questo, e dall'altro abbiamo la direttiva quadro acqua, la 2060. La direttiva quadro acqua mette in moto gli osservatori per le crisi idriche, comincia a dare informazioni e stabilisce cosa si deve fare per preservare la risorsa, sia per quanto riguarda la quantità che per quanto riguarda la qualità. In questo momento stiamo lavorando proprio per la quantità, perché è una cosa importantissima, per il fatto che l'Italia ha emesso i primi decreti ministeriali per quanto riguarda il monitoraggio della risorsa idrica in termini di volumi, a cui le regioni hanno già aderito attraverso delle delibere, e praticamente nell'arco di da qua al 2020 tutta la risorsa idrica dovrà essere monitorata e gestita poi anche a livello informatico, a livello di distretto, quindi si sa esattamente quanta risorsa verrà utilizzata, soprattutto per gli usi irrigui, e soprattutto la parte anche nostra consortile, e parliamo di risorsa che viene distribuita a livello collettivo dai consorti di bonifica, noi stiamo adottando tantissimi, da qualche anno oramai, degli strumenti per preservare la risorsa. Ecco, ma vi noi sono siamo... problemi, come nel caso degli acquedotti si dice spesso che perdono l'acqua, che c'è una dispersione, buona parte non arriva ai serbatoi, per carenza di tubi, eccetera. Per quanto riguarda i vostri invece, per quanto riguarda canali o appunto fiumi, dobbiamo considerare una cosa: l'acqua che viene distribuita dall'irrigazione, al di là delle perdite funzionali delle condotte superficiali in modo particolare, poi ricordo che noi usiamo anche circa 5-6 mila chilometri di canali a cielo aperto, che non sono tubature in pressione come hanno gli acquedotti, ma soprattutto stiamo considerando, deve essere considerato una cosa: l'agricoltura utilizza parte e gran parte dell'acqua, però quello che stiamo scrivendo alcune regole a livello anche in accordo con il Ministero dell'Agricoltura. L'acqua che viene prelevata dai corsi d'acqua, che viene utilizzata dall'agricoltura, è tutta acqua che viene realmente utilizzata per produrre, quindi per alimentare le piante, o è acqua che viene distribuita attraverso la pratica irrigua e in realtà è quella che genera il territorio, l'ambiente, il paesaggio in cui viviamo? Distribuire acqua su un territorio vuol dire non ridurlo in siccità e non ridurre un paesaggio in asciutta. Quindi, se capisco bene, il nostro Veneto, oltre il 50% dell'acqua che viene distribuita dall'irrigazione, non serve all'irrigazione, ma serve ad alimentare i reticoli idrografici di acqua durante il periodo estivo, vivificare un territorio, ma soprattutto alimentare le falde e generare quel paesaggio che si è costruito artificialmente nei secoli grazie alla distribuzione di acqua. Altrimenti avremmo più di metà Veneto, tutta la parte pedemontana, dove in realtà, non esistendo corsi d'acqua superficiali, non esisterebbe acqua. Ecco, ci può essere anche un problema di acqua utilizzata in maniera impropria. Per esempio, penso che potrebbero essere, non dico dar da bere ai giardini d'estate per tenere il giardino verde, sappiamo che ci sono giardini, non so, per esempio quelli all'inglese, che necessitano di quantità sproporzionate, ma anche nell'agricoltura forse ci possono essere dei sistemi di irrigazione, ma so, a goccia o in altro modo, che permettono comunque di utilizzare meno risorsa. Allora, sono due aspetti. Noi stiamo riconvertendo gli impianti irrigui con sortili, quindi vuol dire le condotte che stanno portando acqua presso le aziende, utilizzando sistemi in pressione, tubati e migliorando l'efficienza. Abbiamo un bando aperto adesso del Ministero dell'Agricoltura per quanto riguarda il piano irrigo nazionale, dove il Veneto parteciperà con progetti importantissimi di riconversione, e vuol dire aggiornare tutte queste infrastrutture. Dall'altra parte ci sono le infrastrutture aziendali, e quindi gli agricoltori che non utilizzano più sistemi di irrigazione con grossi volumi di acqua, ma con micro volumi di acqua. Ora, tutto questo è supportato anche, per esempio, da una tecnologia che i consorzi di bonifica forniscono agli agricoltori, detta, che si chiama IrriFrame. È una piattaforma informatica di consiglio irriguo che, mettendo insieme i dati suolo, pianta, atmosfera, quindi l'evapotraspirazione delle piante, il tipo di suolo e le culture e la piovosità, dà un consiglio irriguo all'agricoltore di come, quando e dove irrigare, su quale cultura, e lo riceve sul cellulare o sullo smartphone l'agricoltore in azienda. Questo permette di risparmiare dal 25 al 30% il volume d'acqua di solito distribuita. Questo però, attenzione, va unito con tutto invece gli effetti positivi che genera la distribuzione dell'acqua, perché gli effetti che sono definiti esternalità positive, o in termini tecnico servizi ecosistemici, sono generati dalla pratica irrigua nel momento che si distribuisce acqua. Faccio solo un esempio: nella pedemontana abbiamo importanti aree dove distribuiamo l'acqua attraverso le canalette superficiali in cemento, e l'irrigazione avviene per scorrimento, grossi volumi di acqua distribuiti sul territorio. Qualcuno può dire: quanta acqua si spreca? Bene, se quella pratica lì non venisse fatta così, a valle della linea delle risorgive, quindi nell'area per esempio che abbiamo attorno alla città all'arco lagunare di Venezia, tutti i fiumi di risorgiva, ma possiamo citarne uno per tutti, il fiume Sile a Treviso, non sarebbe così, perché le portate di questi fiumi sono totalmente dipendenti dall'acqua che viene immessa nel territorio a monte. Assolutamente. Allora, la pratica irrigua non è più una pratica esclusivamente per produrre un cibo, ma è una pratica ambientale. Ecco, dobbiamo tenere in considerazione sempre questo duplice funzione che ha la pratica irrigua. Ecco, sì, da una parte si deve risparmiare attraverso la tecnologia, all'altra però bisogna che pensiamo che l'acqua in un territorio deve circolare per garantire quel territorio, il paesaggio che si è generato proprio dall'acqua. Ecco, e con questi aspetti che fanno vedere anche la complessità della situazione, che non è solo il binomio agricoltura, acqua potabile, industria, eccetera, assolutamente, ma si lega alla storia e al nostro paesaggio, ci dobbiamo lasciare perché abbiamo terminato il tempo a disposizione. La ringrazio nuovamente. Grazie a voi, buona giornata. Grazie. E con questo vi diamo appuntamento con il quadrifoglio alla prossima settimana. Se volete potete riascoltare questa trasmissione sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.